questo giovedì 16 febbraio, beh, certo, la vicenda Sanremo è ancora nei titoli di prima pagina, ma le scelte sono diverse come aperture. Intanto il Sole 24 Ore, con il nuovo dorso anche Imprese e Territori, dedica il titolo all'Italia, ecco l'Italia del credit crunch. Questo è il titolo, l'inchiesta del Sole 24 Ore, le testimonianze e i casi di aziende soffocate dalla restrizione dei finanziamenti bancari. Mentre problemi per la Chiesa, che non vengono da Sanremo e Celentano, ma un po' più seri, è la questione dell'ICI. E questo è il titolo di molti quotidiani. Corriere della Sera, Chiesa e ICI, nuove regole. La Repubblica, riforma del fisco e ICI sulla Chiesa. La Stampa, ICI, svolta sui beni della Chiesa. Il Messaggero, ICI sui beni del Vaticano. Il Secolo XIX, ICI alla Chiesa si cambia. Insomma, questo, come vedete, un'apertura scelta da molti quotidiani. E poi Celentano. Libero, il delirio di Sanremo, lei è peggio di lui, e dove lei è il direttore generale della RAI. Il Fatto Quotidiano, Celentano sfascia la RAI, l'unità, qualunque mente c'è Celentano. Mentre il Giornale apre su Berlusconi che invia una lettera, Berlusconi per il quale è stato chiesto 5 anni per il processo Mills, ha inviato una lettera al giornale pubblicata in prima pagina, Berlusconi, soffro ma spero. Il Manifesto invece indietro tutta sull'Italia in recessione. Intanto, poco alla volta, si scoprono i redditi di membri del governo. Allora sapete che Monti li vuole rendere pubblici tutti, non l'hanno ancora fatto e qualcuno così alla spicciolata, dopo il ministro Profumo e qualche sottosegretario, anche il ministro alla funzione pubblica Patroni Griffi, il sottosegretario Catricalà, il sottosegretario all'informazione Peluffo, hanno fatto sapere i propri redditi. 5 case per Patroni Griffi, così titola pagina 19 Il Sole 24 Ore con Mariolina Sesto. Allora, anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo. Patrimonio online, dalle case fino alla rendita di 5 euro. Patroni Griffi dichiara, se volete, se siete curiosi, in Italia siamo fatti così, vogliamo sapere quanto guadagnano dal vicino di casa alle persone famose. Il ministro Patroni Griffi denuncia 205.000 e rotti euro. Poi ha anche alcuni fabbricati a Roma e Napoli, 3 automobili, una BMW 320, una Ford Fiesta Plus, una Toyota Yaris, oltre a una moto, 392 azioni Enel, 10.300 Enel Green Power, obbligazioni BIMI TVM per un valore nominale di 60.000 euro. Il sottosegretario Catricalà, invece, che è uno che ha sollecitato tutti gli altri ministri a far sapere i propri redditi, allora per primo o uno dei primi li fa sapere anche lui. Il reddito del 2010 di Catricalà era di 740.000 euro lordi, ora ha avuto un crollo verticale, dichiara 200.000 euro, sottolinea di non voler svolgere altri incarichi. È comproprietario di 6 fabbricati, 4 a Roma, 1 a Castiglione della Pescaia, 1 a Catanzaro. Possiede anche una Sessa Key Largo 28, imbarcazione a motore immatricolata nel 2008 e una Mercedes del 2001. E aggiunge anche la proprietà del 3,10% di 2 terreni in provincia di Catanzaro. Vabbè. Per Repubblica invece il governo slitta l'operazione redditi trasparenti, cioè perché c'è chi la dipinge come una cosa invece al negativo, e cioè dovevano essere già noti tutti questi redditi. Invece rinviata a martedì, ieri diffusi solo quelli di Patroni Griffi, Catricalà e Peluffo per l'appunto. Ricordate ieri che avevamo il presidente della provincia di Caserta, Domenico Zinzi, colui che vuole l'aeroporto Grazzanise, a Grazzanise, chiudiamo Napoli e facciamo l'aeroporto a Grazzanise, in provincia di Caserta, aeroporto internazionale, eh? Ebbene, lui, come ieri ci ha anticipato, è anche parlamentare, ha un doppio incarico, c'è una legge della Corte Costituzionale che ha costretto molti sindaci parlamentari a scegliere: o fate il sindaco o fate il parlamentare. Io ieri gli ho chiesto, scusi, ma per il presidente di provincia non vale? Sì, guardi, adesso proprio oggi la giunta per le elezioni si riunisce alla Camera e deciderà anche su chi è presidente di provincia e parlamentare. Si sono riuniti e hanno deciso La casta si salva, province, blitz di Lega e PDL in salvo i presidenti deputati, così titola Repubblica. Mentre il giorno riecco la casta, i presidenti di provincia restano deputati. Il messaggero province, la Camera salva i doppi incarichi. Libero, la casta si salva, doppie poltrone per tutti. Ecco una bella carrellata di titoli. Montecitorio ha deciso, con voto di maggioranza, soprattutto per voto di Lega e PDL, si può rimanere presidenti di provincia al contempo parlamentari. Così è stato deciso. Nonostante una legge della Corte Costituzionale per i sindaci dica il contrario e per estensione si interpretava anche per i presidenti di provincia, la Camera ha detto no, noi contiamo più della Corte Costituzionale, massimo organo giudiziario, e interpretiamo questa sentenza come crediamo. E crediamo che si possa rimanere presidente di provincia e parlamentare. Dunque, la presidente della provincia di Asti, Armosino, e parlamentare, salva. Presidente Cesaro della provincia di Napoli, salvo. Il presidente Cirielli di Salerno, salvo. Iannarilli di Frosinone, salvo. Zinzi, per l'appunto, di Caserta, salvo. Pepe di Foggia, salvo. Simonetti, presidente della provincia di Biella, salvo. E presidente della provincia di Brescia, Molgora, salvo. Faccio un PS per il presidente della provincia di Brescia, Molgora, che da giorni e giorni stiamo cercando, perché il presidente della provincia di Brescia, Molgora, anche deputato, nonché nello scorso governo sottosegretario all'economia, per cui calcolava e cumulava 3 incarichi, è anche una delle persone che ha fatto ricorso per evitare che il vitalizio gli venga dato a 60 anni. E invece lui lo vuole a 50 anni, come prevedeva la vecchia giurisprudenza della Camera. Ha fatto ricorso, la Lega ha detto receda da questo ricorso. Lui ci fa sapere tramite il suo portavoce da giorni che non intende parlare su questa vicenda. Noi insisteremo. Presidente Molgora, venga qua, ci spieghi perché, con tutto il diritto che ha, ha fatto questo ricorso per ottenere il vitalizio a 50 anni e non a 60, come invece è cambiata la giurisprudenza della Camera. E ci spieghi anche perché mantiene un doppio incarico, legittimamente, così ha deciso la Camera. Presidente di provincia e parlamentare. 24 mattino. Siamo qui alle 7:36 minuti, continuiamo allora a sfogliare i giornali. Mario Monti è andato a Strasburgo. E eccoli qua i titoli. Ecco, il titolo più agiografico di oggi lo vince Repubblica sicuramente. Monti, standing ovation europea. Questo è il titolo a pagina 10. In realtà Monti, alcuni giornali fanno notare che sì, ha avuto molti applausi. Tra l'altro qualcuno ha voluto sottolineare la differenza rispetto alle accoglienze che aveva Berlusconi prima, l'accoglienza invece a Mario Monti. Un Mario Monti che ha perso solo per un attimo il suo aplomb sobrio in un'occasione, quando l'inviato del Corriere della Sera, Ivo Caizzi, gli ha fatto una domanda. Tanto che sia l'Unità col giornalista del Corriere Monti perde l'aplomb, sia il giornale Monti non digerisce le critiche e si sfoga contro il Corriere, dipingono questa notizia così. Per il giornale un euro show di Monti a Strasburgo con tanto di sfogo nei confronti di Ivo Caizzi, giornalista del Corriere della Sera, che lo scorso 13 febbraio aveva osato pubblicare un articolo dal titolo Unione Europea, il governo Monti, i casi di nepotismo. Sia mai, il premier non l'ha presa affatto bene. E dunque, quando ieri Caizzi del Corriere gli ha chiesto cosa intendesse fare l'esecutivo su crescita, welfare, occupazioni, Monti ha risposto piccato. Sentite come ha risposto Monti. Forse niente, dottor Caizzi, se alla testa di questo governo c'è una persona arrivata dov'è per una serie di raccomandazioni o per spinte ricevute nel corso della sua vita e non in seguito a un percorso democratico. Insomma, uno sfogo in piena regola stile Monti, certo, non uno sfogo plateale, sempre un po' sul permaloso e comunque sul piccato, no? Tra l'altro oggi ho letto proprio il reportage e il racconto, reso conto di questa visita di Ivo Caizzi, ma non c'è nulla, molto asciutta, molto a pagina 3 del Corriere, a Strasburgo applausi per Monti, noi fuori dalla zona d'ombra, questo è il titolo. C'è tutto il racconto di cosa ha detto Monti, ha detto che è definitivamente acquisita attraverso il fiscal compact la disciplina finanziaria, ritiene necessario e possibile in parallelo avere una più forte, concreta e decisa azione per la crescita, non risultano deficit di attuazione, ha puntato l'indice contro la corruzione, il nepotismo e l'evasione fiscale. Ecco, questo è l'unico accenno di Ivo Caizzi, ha puntato l'indice contro corruzione, nepotismo e evasione fiscale, ma non c'è nulla di questo scontro, comunque di questa domanda e risposta un po' piccata del Premier. In ogni caso, io dicevo prima, notizie un po' difficili da digerire, forse per la Chiesa e il Vaticano, non sono arrivate certo da Celentano, quelle sono stupidaggini in confronto, anche se ne parleremo alle 8.30. Ma le notizie più serie sono quelle che riguardano la nuova tendenza da parte del governo, la volontà di cambiare la legge per quel che riguarda le esenzioni dall'ICI o dall'IMU per i beni commerciali della Chiesa. Ebbene, una linea che è stata anticipata da una direttiva appunto del governo Monti, che ha rotto gli indugi proprio alla vigilia dell'incontro annuale dei vertici della Repubblica con quelli della Chiesa per l'anniversario dei patti lateranensi, ne parlavamo ieri. Ebbene, ecco qui, ICI sui beni commerciali della Chiesa, così titola pagina 3 Il Sole 24 Ore, Monti, le esenzioni saranno solo per le attività di culto, la replica della CEI, la conferenza episcopale è attenzione però a tutelare il no profit, come detto la zona grigia è quella di tutti quei beni non a uso strettamente commerciale, che magari hanno una parte del bene è utilizzata per funzioni no profit e quindi per legge sono esentate dal pagamento dell'ICI. Una parte però dello stesso bene magari è invece a scopo commerciale, allora in questa zona grigia ci sono esenzioni a volte che sono state date con maglie troppo larghe. La svolta dell'ICI sulla Chiesa esentasse solo i luoghi di culto, anche Maria Antonietta Calabrò sul Corriere della Sera a pagina 5. Niente più esenzioni per le attività non esclusivamente commerciali della Chiesa, cliniche, pensioni, scuole. Per l'esenzione non basterà più avere all'interno dell'immobile una struttura religiosa che rimarrà comunque esente. Il fisco guarderà la destinazione prevalente individuando un rapporto percentuale tra le due attività e su tutto il resto si pagherà il dovuto. E questa è la nuova disciplina che il governo Monti intende portare avanti. Per Avvenire è posta così: ICI, in arrivo il chiarimento definitivo. Mimmo Muolo ne parla a pagina 4, sulla questione dell'ICI per gli enti non commerciali verrà messo al più presto un punto fermo, esenzione per quegli immobili dove si svolge un'attività non commerciale, pagamento invece per quelli dove si svolge un'attività commerciale. Quando uno stesso immobile è utilizzato per entrambe, l'esenzione scatterà solo per le parti destinate all'attività non commerciale. Anche se questa improvvisa accelerazione da parte del governo Monti, secondo la stampa e secondo Andrea Tornielli, uno dei vaticanisti della stampa, è stato un po' un fulmine a ciel sereno in Vaticano. Oltre Tevere nessuno era stato avvertito. Questo scrive la stampa, la partita è stata giocata unilateralmente dal governo e personalmente dal Premier insieme al ministro Moavero, che è il ministro per le relazioni internazionali, cioè il ministro per le relazioni con l'Unione Europea, e sappiamo che in questo gioca molto. Perché? Perché l'Italia pende un'infrazione, una richiesta di infrazione portata avanti dai radicali nei confronti proprio dell'Unione Europea, e dunque rischia l'Italia un forte salasso su questo, no? Se queste direttive dell'ICI e queste esenzioni fossero incompatibili con le norme comunitarie. E dunque Monti, che non era tenuto a informare nessuno perché la materia non è di pertinenza del concordato, fa sapere la stampa, ha deciso proprio di non avvertire nessuno in Vaticano e è proceduto, la vicenda è andata avanti. A proposito di esenzioni, a proposito di fisco, fa un po' specie dopo Cortina, dopo i controlli. Nessuno scontrino in 4 negozi su 5, il record napoletano. Insomma, pagina 10 del Corriere della Sera, l'operazione anti evasori. Sono stati controllati 386 esercizi commerciali, 317 sono risultati inadempienti nell'emissione degli scontrini fiscali. L'82%. Ma com'è possibile? L'82%. Ci sono esercizi commerciali, a far sapere la Guardia di Finanza a Napoli, che non hanno neppure il registratore di cassa. Non ce l'hanno. In questo caso molti gli ambulanti commerciali. Quelli che ce l'hanno non lo usano alcuni. Alcuni emettono scontrini una volta ogni tanto. Insomma, questa è la situazione fotografata in questo controllo su 380 esercizi commerciali. Mentre la politica si interroga, la notizia politica più importante del giorno, di stretta politica, che riguarda un politico, l'ex premier Berlusconi, e la richiesta a 5 anni da parte del PM milanese Fabio De Pasquale per l'imputato Silvio Berlusconi nel processo Mills. Condannate Berlusconi a 5 anni, Silvio Berlusconi prende carta e penna e fa uno sfogo, pubblicato in prima pagina del giornale, una lettera. Ve la offriamo così come ci è pervenuta, scrive il direttore Alessandro Sallusti. Ho la coscienza di aver servito in questi anni con tutte le mie forze il paese. Così inizia Berlusconi. Ne sono ripagato con un accanimento da parte di alcuni magistrati di Milano che non ha eguali nella storia. Sono trattato peggio di un delinquente, con accuse che non trovano corrispondenza nei fatti, smentite nel corso del processo dibattimentale. La decisione di impegnarmi nella vita pubblica cercando di trasformare e cambiare l'Italia non mi è stata mai perdonata da tutti quei poteri che si sono visti insidiati nei loro interessi e nelle loro ambizioni. E poi conclude la lettera pubblicata come un editoriale in prima pagina: la coscienza che ho di questa situazione, la vicinanza della mia famiglia, di quanti mi vogliono bene e mi conoscono, mi dà la forza di continuare la battaglia per il riconoscimento pieno della mia totale estraneità a quanto mi viene addebitato. Spero ancora che giudici integerrimi e devoti unicamente alla legge e alla verità decidano in piena coscienza e nel pieno rispetto della realtà dei fatti. Questo Silvio Berlusconi in prima pagina del giornale. Avanti, c'è truffa, così titola pagina 10 il Fatto Quotidiano. È la vicenda di una presunta truffa su cui indaga la Procura di Napoli. Per 12 anni il Dipartimento dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, scrive Enrico Fierro, è stato il generoso bancomat di Sergio De Gregorio, senatore, e Walter Lavitola, ricordate, ex direttore editore dell'Avanti, e accusati di avere percepito indebitamente come rimborsi all'editoria 23 milioni e 200 mila euro in 12 anni. Indagato dunque il senatore De Gregorio, del Popolo della Libertà, anche sul Corriere: truffa da 23 milioni, indagato De Gregorio, per i magistrati ha intascato fondi statali per l'editoria con documenti falsi di cui non aveva diritto. È il fondatore di Italiani nel Mondo, è candidato con Di Pietro, è entrato con Di Pietro, poi dopo qualche tempo passò dall'altra parte. Sull'Avanti, truffa da 23 milioni, anche titolo di pagina 15 della Stampa. Ma adesso siamo arrivati a lui, Adriano Celentano, colui che ha sfasciato la RAI, titola in prima pagina il Fatto Quotidiano, colui che lui, giocando con un gioco di parole invece libero, lei è peggio di lui, lei è il direttore generale della RAI, libero con Maurizio Del Pietro scrive: ora bisognerebbe commissariare l'azienda, cioè, perché la linea di molti giornali è: ma scusate, cosa vi aspettavate da Adriano Celentano? Che andasse a cantare qualche canzone degli anni 70? E se uno si porta in casa Adriano Celentano, poi deve accettare che Adriano Celentano dica quello che vuole, no? Perché è così, perché è da anni che fa così. E quindi se uno accetta e fa un contratto capestro in cui dà carta bianca, in cui non controlla neanche le prove, non sa neanche che cosa dirà sul palco, poi quando va sul palco non è che si può lamentare a posteriori. In ogni caso, Sanremo commissariato, titola pagina 13 il Sole 24 Ore. Ebbene sì, abbiamo visto anche questa finalmente nel 2012, abbiamo sentito un bel po' di parolacce, abbiamo visto Belen con uno spacco coscia il cui dubbio era: ma avrà le mutandine? Il dubbio di molti italiani, cioè oggi tutti pongo questa foto, anche il dubbio di Elisabetta Canalis, che gli ha chiesto: scusa, ma ce le hai? E Belen ha detto: ce le ho attaccate al vestito, ma ce le ho. Queste le mutandine, Belen, non sembrava dalla foto che pubblicano oggi i giornali, però che dire, i cattolici sono arrabbiatissimi. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, oggi per il secondo giorno consecutivo fa un corsivo in prima pagina dal titolo Domande sgabelli. Forse bisognerà persino ringraziarlo Celentano. Certo, non per le cose senza senso che ha detto su giornalisti che disprezza e insulta, su giornali che evidentemente non legge più da anni. Bisognerà ringraziarlo per due motivi. Il primo sono le domande sul cristianesimo che ha suscitato nella testa di più di qualcuno con le sentenze apocalittiche della sua predicazione sanremese. Il secondo motivo di gratitudine è che, oltre alle sue intenzioni, con una performance all'insegna non della libertà responsabile di opinione, ma di una gratuita e sfrenata carta bianca retorica, ha riportato in primissimo piano il tema della cultura, dei compiti e delle modalità di svolgimento del servizio pubblico radio-televisivo. È accettabile che troppe trasmissioni RAI continuino a ridursi a sgabelli del trono di ipertrofici io mediatici? Audience e sollecitazioni degli sponsor giustificano davvero tutto? Così Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, giornale che andrebbe chiuso immediatamente, ha sentenziato Celentano, giornale ipocrita insieme a Famiglia Cristiana. E invece Aldo Grasso un deficiente, così l'ha bollato Celentano con il direttore artistico di Sanremo, che ha detto: ma su, dai, deficiente non è un insulto. questo, vabbè, visto il livello di insulti che si sono sentiti a Sanremo, effettivamente deficiente non è neanche la peggiore parolaccia sentita. In ogni caso, Fosca Binker, alias Franco Bechis, su Libero, oggi fa i conti in tasca sul paradiso in terra di Sant'Adriano, pagina 5 di Libero. Volete sapere, visto che parla molto di paradiso Adriano Celentano e ha detto i preti non parlano più del paradiso, Libero dice: lui il paradiso in terra se l'è fatto. I Celentano posseggono 12 fabbricati a Milano, 5 a Galbiate, 3 a Bordighera, 7 ad Asiago, 4 a Radda in Chianti. Li abbelliscono grazie a 12 terreni di proprietà a Galbiate, le 6 porzioni dell'altopiano di Asiago, 65 appezzamenti di terra posseduti sempre a Radda in Chianti. L'impero societario ha 2 SRL discografiche, una in comproprietà con la Sugar di Caterina Caselli, la Ciao Ragazzi che produce le fiction, le 2 immobiliari, una piccola quota in una società alimentare specializzata nel ramo bio, la Prodotti Naturali di Milano. Ecco tutte le società, gli immobili scandagliati, 31 fabbricati, 83 terreni, 2 società, il paradiso in terra di Celentano, difeso ovviamente da Don Andrea Gallo, visto che lui ha detto Don Gallo è uno dei pochi buoni. Vabbè, ne parleremo alle 8.30. Avremo anche un prete di Galbiate, dove risiede Celentano, che spesso parla con Celentano. Avremo anche il consigliere di amministrazione della RAI, Antonio Verro, che torna con noi. Devo concludere con il calcio. Ieri c'è stata la Champions League e il campionato. Gioie e dolori. Milan bellissimo, titola la Gazzetta. 4-0 all'Arsenal, la Juve invece pari furioso, gli arbitri, questi cattivoni, 0-0 a Parma, ma c'è ancora un recupero da fare con il quale la Juventus balzerà clamorosamente in testa alla classifica, veleggiando tranquilla e sicura verso il certo scudetto. Ci fermiamo qui, il giornale radio.